tollerarlo e forza, vicino ancora, e fra delusi amanti, lusingarlo a me giova, non saperlo, ma del caro tuo prezzo lui mi seguì, e ne si ascolto e gano per le mie più segrete, che fa risolvi via in così avversa sorte, arbitro di sua vita e di sua morte. Tu là ascosa sarai, testimon dei suoi sensi, ahimè, perduto il caro bene. Che pensi? Forse dispiace, oppur disperi, oddio, ch'io possa trionfar, vedi?